Torniamo in diretta e, come annunciato, siamo al telefono con una compagna di Milano del collettivo femminista Le 25.11 che stanno seguendo la delegazione dei familiari tunisini che in questo momento sta partendo da Roma, se non sbaglio. Sì, esattamente. Ciao Federica. Ciao Federica. Ciao. E ben trovata ai nostri microfoni. Noi in queste settimane abbiamo seguito appunto questa campagna da una sponda all'altra e quindi oggi ti chiediamo di dare gli aggiornamenti per quanto riguarda questa tappa romana della delegazione. Grazie. Allora la delegazione è a Roma ormai da 3 o 4 giorni. Prima ha fatto un sit-in davanti all'ambasciata e poi oggi aveva l'incontro con il prefetto Angela Pria del Ministero degli Interni italiano, e quindi noi siamo andati abbiamo accompagnato la delegazione al Ministero e dopo c'è stata una conferenza stampa. Quello che il Ministero italiano ha detto alla delegazione è che loro conoscono questo caso, che lo stanno trattando con le autorità tunisine già da un po' di tempo e che in fondo la richiesta del fatto che ci sia uno scambio delle impronte digitali potrebbe effettivamente rispondere ai genitori rispetto al fatto se siano arrivati o non siano arrivati in Italia, e che però c'è un po' un problema dal punto di vista delle autorità tunisine al fatto di farlo questo scambio o non fare questo scambio. Noi abbiamo ricordato per l'appunto che uno scambio delle impronte digitali è una cosa che si fa continuamente, si fa continuamente nel caso in cui si voglia espellere le persone, e che non è questa cosa così difficile, ed effettivamente ci è stato ribadito tanto dal prefetto quanto dal responsabile della polizia che era lì presente, che da questo punto di vista non ci sarebbe questa domanda non comporta un gesto così complicato e un problema così complicato, è un problema di volontà. Noi dobbiamo dire che per l'appunto, come voi sapete perché ci avete seguito, i genitori hanno cominciato a cercare i loro figli dal 1° marzo del 2011, siamo al 21 febbraio del 2012, se non sbaglio, quindi è passato un anno e una volontà da parte delle istituzioni finora non c'è stata. L'appello preciso dello scambio delle impronte risale al ottobre 2011, quindi sono passati già 4 mesi. In questi 4 mesi, come collettivo di donne italiane e tunisine, le 25.11, all'interno della campagna Da una sponda all'altra, vite che contano, abbiamo fatto migliaia di iniziative insieme alle famiglie in Tunisia, e adesso con la delegazione abbiamo scritto lettere ai ministri, abbiamo chiesto al ministro Riccardi di incontrare le madri, eccetera eccetera, e dobbiamo constatare che questo scambio non c'è ancora stato, e questa è l'unica cosa che si può dire per ora, nel senso che noi siamo veramente un po' allibite rispetto a questa incapacità, indifferenza, non volontà di compiere un gesto che per l'appunto ci è stato detto oggi anche tecnicamente, perché l'abbiamo chiesto con molta precisione, tecnicamente non comporta nessun tipo di difficoltà, evidentemente rispetto al questo gesto viene compiuto per quando si tratta di espellere, ma non viene compiuto quando si tratta invece di rispondere al dolore delle famiglie per sapere se i figli siano arrivati oppure se non siano arrivati. Certo. Questo è forse l'unica cosa da dire. Dopodiché certamente c'è un impasse dovuto al fatto che non si capisce per quale motivo la Tunisia non voglia dare queste impronte, d'altra parte però non ci sembra neanche che l'Italia le stia chiedendo così a gran voce. Perché oggi è per l'appunto la prima volta che c'è stato questo incontro, dopo che noi la lettera ai ministri, compresa la ministra dell'interno, l'avevamo già scritta più di un mese e mezzo fa. Certo. Quindi i tempi sono molto lunghi, mentre i tempi per le famiglie dovrebbero essere molto brevi, perché è già da un anno che si stanno inventando qualsiasi cosa per continuare a fare una richiesta di semplice conoscenza e di sapere se i loro figli siano arrivati o non siano arrivati in Italia. Le altre cose forse da dire rispetto al ministro, al Ministero dell'Interno italiano, è che alla domanda poi nostra di un eventuale prolungamento del loro visto, perché loro hanno un visto che scade il 27 febbraio, quindi a breve, 5 giorni, e di fronte a questa domanda, soprattutto perché loro hanno contattato durante questo soggiorno romano anche degli avvocati che stanno cercando di fare una denuncia di scomparsa, e quindi stanno cercando di imbastire la possibilità di fare questa denuncia, di fronte alla domanda di un prolungamento, al Ministero dell'Interno ci hanno detto che era l'istituzione sbagliata a cui chiederlo, perché avremmo dovuto chiederlo al Ministero degli Esteri, come se, voglio dire, non ci fosse una chiaramente non c'è una volontà di fare in modo che questo visto venga prolungato. E altra cosa forse ancora è che quando abbiamo detto, perché come comitato di come collettivo di donne italiane tunisine avevamo fatto la richiesta per la delegazione di recarsi, di poter entrare al CIE di Ponte Galeria, l'avevamo fatta una richiesta ufficiale alla prefettura di Roma, abbiamo fatto presente al prefetto Pria questa cosa qui, e ci è stato risposto che ci sarebbe una legge che non mi risulta italiana, secondo la quale per poter entrare all'interno di un centro di detenzione bisogna avere un interesse specifico. Quando gli abbiamo detto che forse l'interesse da parte dei genitori di sapere se i loro figli sono in vita potrebbe costituire effettivamente un interesse specifico, e loro ci hanno risposto dicendo che l'interesse deve essere da parte della persona detenuta. Quindi trattandosi di persone scomparse e disperse, non è molto semplice che possano manifestare il loro interesse. Senti, ciao Federica, sono Elisabetta. Volevo chiederti una cosa, quindi non vi hanno fatto entrare a Ponte Galeria? No, non c'è noi abbiamo fatto la richiesta, ma non c'è stata una risposta per... noi non ci siamo neanche recati oggi a Ponte Galeria, perché c'era sia l'incontro con il prefetto sia la conferenza stampa, ma noi avevamo fatto una richiesta per entrare ieri. Ieri era lunedì, giusto? Sì, spiegando per l'appunto la richiesta. Noi l'abbiamo fatta per la delegazione, non l'abbiamo fatta per noi. Abbiamo messo i nomi della delegazione e abbiamo spiegato bene che questa delegazione ha un visto che è in scadenza e che hanno un'impellenza quindi di entrare, e abbiamo spiegato bene la storia, però nessuno ci ha risposto. Certo, no, era una curiosità. Non c'è una possibilità. Quando io ho fatto presente al prefetto Pria oggi, al Ministero degli Interni, questa richiesta da parte della delegazione di poter entrare nei vari CIE per eventualmente vedere se ci sono i loro figli, oppure vedere anche degli altri tunisini che magari potrebbero averli visti nel loro percorso, ci hanno risposto come ti ho detto, per l'appunto sì, ci deve essere un interesse. Prima sembrava che l'interesse ovviamente fosse della persona che chiede di entrare, giusto? Quando io ho detto vabbè, ma ovviamente un genitore avrebbe un interesse a sapere se suo figlio è in vita, e loro hanno risposto che l'interesse deve essere da parte della persona detenuta. Comunque guarda che le risposte che danno sono sempre di comodo e di fantasia, perché ogni volta se ne inventano molto, una diversa. Grande fantasia, perché non esiste assolutamente una legge di questo tipo. No. E poi effettivamente prima è l'interesse del genitore, poi c'è della persona che deve entrare, che fa la domanda, e poi invece l'interesse diventa del detenuto. Assolutamente. Il detenuto ha bisogno della sua privacy. Non si capisce bene quale possa essere la privacy di una persona scomparsa. No, è assolutamente discrezionale. Questa è una cosa che noi abbiamo verificato sempre, e per questo che i CIE sono delle vere e proprie galere. Loro definiscono ospiti quelli che stanno dentro, ma in effetti sono più reclusi dei reclusi. C'è un'assoluta chiusura a qualsiasi tipo di contatto. Senti Federica, come proseguirà questa? Perché c'è molta determinazione. Io li ho lasciati mentre erano ancora con alcune associazioni che in questo momento li stanno, gruppi di donne soprattutto, che li stanno ospitando in questo momento a Roma, e l'idea era quella di capire che cosa faranno rispetto alla scadenza del visto. Credo che faranno la richiesta di poter prolungare il visto, e poi bisognerà decidere. Comunque secondo me la cosa rispetto a questo è stata, la cosa da dire è stata che a un certo punto la mamma, perché c'erano due padri e una mamma nella delegazione, ha detto va bene, ma io vorrei che voi provate a immaginare che io ho questa data di scadenza e cosa devo fare, e questo l'ha chiesto anche ai giornalisti, devo entrare in clandestinità, cioè io credo che mio figlio, perché questa mamma ha visto un telegiornale italiano in cui c'è l'immagine di suo figlio, quindi immagina suo figlio in Italia e dice provate a immaginare, io penso che mio figlio sia in Italia e so che il visto d'ingresso in Italia mi scade il 27, quindi io dovrei tornare in Tunisia sapendo che mio figlio è in Italia, oppure dovrei entrare in clandestinità. In questo caso mi considerate clandestina, cosa sarò per voi? Certo. Una mamma clandestina che cerca suo figlio. Va bene, no. E credo che questa sia una domanda abbastanza... colpisce, perché ovviamente... pensiamo siano molto determinate, insomma, ovviamente hanno tutte le ragioni per esserlo. Io non ti sento più. Immagino, tu sei in treno. Per partire, quindi probabilmente non... Va bene, allora noi ti auguriamo un buon viaggio e poi ci aggiorniamo anche nelle prossime settimane. Comunque ad informare finché loro hanno questa determinazione, insomma, ad andare avanti, noi appoggeremo e seguiremo. Quindi ci aggiorniamo, insomma. Va bene, a d'accordo, presto. Grazie mille. Grazie a te, ciao Federica, ciao. Io non gosto di buon gusto. Io non gosto.